Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo in diretta per tre serate con tre nuove puntate. Cominciamo andando a Napoli, che è senza dubbio un terreno su cui costruire innovazione e realizzare progetti è più difficile che altrove. Ma è quanto è stato fatto con il progetto Orchestra, con cui la città partenopea punta ad accelerare, al pari di altre grandi città italiane, il percorso verso quell'idea di città del domani che chiamiamo Smart City e che dà anche il nome alla nostra trasmissione. Buonasera Stefano Consiglio. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Eccoci qua, professore di organizzazione aziendale presso la Federico II e responsabile scientifico del progetto Orchestra, che a proposito ricordo è un acronimo, sta per Organization of Cultural Heritage for Smart Tourism and Real-Time Accessibility. Insomma, è un progetto finanziato dal MIUR ed è stato realizzato dall'Università Federico II in collaborazione con il CNR e anche diverse imprese private. Con quale obiettivo, Consiglio? Ma l'obiettivo è quello di sviluppare soluzioni tecnologiche ma anche gestionali ed organizzative orientate un po' alla fruizione del patrimonio culturale e allo sviluppo turistico in un'ottica smart integrata con obiettivi di mobilità sostenibile ed anche ecocompatibilità. La città smart è tale se è in grado di far parlare e fare sintesi tra i diversi ambiti. Noi l'abbiamo provato mettendo insieme la questione della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale, dello sviluppo turistico e della mobilità sostenibile ed ecocompatibile. Ecco, non siete i primi a fare naturalmente questo tentativo, però le chiedo un esempio dei servizi che avete sviluppato, che sono effettivamente piuttosto numerosi. Sì, nel corso di questi due anni di lavoro, siamo in fase adesso finale di sperimentazione. Noi abbiamo sviluppato una piattaforma web che da un lato supporta il Comune di Napoli nel suo processo di decision making in questi ambiti, ma al tempo stesso aiuta i turisti, ma anche i cittadini, a programmare la propria visita nel centro storico di Napoli. In particolare utilizzando una serie di applicazioni, una serie di app intelligenti che aiutano i turisti sia a programmare il tour, ma sulla base dei propri gusti, delle proprie caratteristiche. Ecco, qui io vedo l'audioguida intelligente, la guida elettronica, realtà aumentata, passeggiata nella storia. Le chiedo, ecco, fra tutte queste iniziative se c'è qualcosa che è risultato particolarmente stimolante e interessante per il pubblico, perché voi avete sperimentato a metà giugno queste tecnologie, come appunto ci stava anche dicendo. Esatto, noi abbiamo fatto varie settimane di sperimentazione in uno dei luoghi più belli del centro antico di Napoli, che è la Piazza Bellini, dove ci sono delle mura greche, dei palazzi straordinari. Tra le applicazioni più apprezzate sono state proprio quelle che, rispetto a tante altre, sono applicazioni che in qualche modo tengono conto sia della tempistica del tempo a disposizione del turista, sia dei propri gusti, quindi è possibile in qualche modo valorizzare tutte le informazioni che noi abbiamo sui nostri profili social e quindi utilizzare queste informazioni per mettere a disposizione del turista un percorso che sia coerente con quelle che sono i propri gusti. Cioè, anche diceva la disponibilità di tempo, cioè io per esempio che viaggio spesso per lavoro, mi dovessi trovare a Napoli, potrei dire ho 2 ore di tempo, cosa riesco a vedere in queste 2 ore che mi interessa, che incontra i miei gusti, è un po' questa l'idea. Posso mettere tempi per da che ora a che ora. Magari sono un appassionato di barocco, l'applicazione mi dà la tempistica, mi fa vedere cosa c'è di barocco da vedere. E magari anche se io mi sono trattenuto un po' più del tempo previsto, magari all'interno di una chiesa, mi riprogramma il viaggio, magari chiedendomi di essere più veloce sulla prossima chiesa o saltare magari una chiesa di questa. Senta, una particolare attenzione l'avete messa nel cercare di valorizzare le iniziative dal basso, l'offerta culturale dal basso. Ci spiega? Sì, in Italia, a Napoli in particolare, noi abbiamo un enorme problema di patrimonio abbandonato, a volte erroneamente considerato minore. Da questo punto di vista in città, a Napoli, ma questo si verifica un po' in tutto il sud d'Italia, in tutta Italia, ci sono una serie di associazioni, imprese sociali, cooperative che si fanno carico di svelare questo patrimonio abbandonato. Ebbene, il nostro obiettivo sin dalla fase di progettazione del nostro progetto di ricerca e di sperimentazione è stato quello di cercare di coinvolgere il più possibile questi soggetti che a volte hanno carenze proprio nella fase di promozione e di informazione delle loro straordinarie iniziative. Se noi andiamo a leggere le recensioni di chi è andato a visitare le catacombe della Sanità o del Parco Marino Protetto della Gaiola, scoprirà quanto poi i visitatori apprezzano una visita fatta a stretto contatto con cittadini che si sono rimpossessati di un patrimonio culturale che a volte era abbandonato e non visitabile. Va bene, grazie Stefano Consiglio. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.